Allora, che cosa ci hai preparato? ho scelto fra gli ingredienti che il dottor Ongaro ha elencato, ho scelto il cacao per due semplici motivi. Uno, perché ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi può essere una bella idea Bravo. per la cena di San Valentino, dove il cacao non può mancare. E un secondo motivo è per chi ha deciso di rinunciare ai dolci, come il nostro Fabio, rinunciare o ridurre comunque l'introduzione dei dolci, non far mancare il cacao attraverso una ricetta salata. Sì. In questo caso suggerisco di comprare un bel pollo, magari che abbia visto la luce del sole, e tagliarlo a pezzi Sì. e lo infarinate con farina integrale e via sul fuoco con olio extravergine di oliva e cipolla. Sì. Sfumate con vino bianco. Sì. A questo punto aggiungete 2 cucchiai di cacao amaro in polvere. Bagniamo con il brodo vegetale, insaporite con del peperoncino a piacere e via cottura per circa 20-25 minuti a seconda dei pezzi, la grandezza dei pezzi del pollo. E a questo piatto possiamo aggiungere durante la cottura delle cipolline borrettane, Buone le in questo cipolline. periodo sono buone. E ecco che abbiamo Vuol trovato una soluzione alternativa al dolce con il con il cacao. cacao.